Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Focus Economia. Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda il venerdì, me lo state già chiedendo, c'è la classifica, la poco invidiabile classifica della settimana. Tratteremo, anche se è un tema diciamo che abbiamo già trattato, l'operazione diciamo di passaggio societario, chiamiamolo così, per quello che riguarda la borsa italiana. Ha prevalso l'operazione che vede anche la presenza della Cassa Depositi e Prestiti, l'ABI si dice soddisfatta, l'Associazione Bancaria Italiana e ancora anche il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli. L'operazione Euronext è una buona notizia per l'Italia. Che cosa è successo? Ne avevamo già parlato le settimane scorse, c'era un'offerta, varie offerte per acquisire il controllo della Borsa Italiana come società. E il London Stock Exchange, che ne era il proprietario, ed il circuito borsistico Euronext hanno raggiunto l'accordo su Borsa Italiana. Quindi Piazza Affari passerà, mi riferisco alla società Borsa Italiana, al consorzio paneuropeo di cui fanno parte anche, perché dentro il consorzio c'è Intesa San Paolo e CDP, Cassa Depositi e Prestiti Equity. Quindi il London Stock Exchange ha annunciato di aver venduto l'intera partecipazione in Borsa Italiana per un valore di 4 miliardi e 325 milioni di euro più un importo aggiuntivo che riflette la generazione di cassa da completare. Ha commentato la cosa anche il Presidente del Consiglio Conte su Twitter, ha detto: nasce oggi un leader europeo dei mercati di capitali grazie all'ingresso del gruppo CDP, cioè Cassa Depositi e Prestiti, in Euronext. Ha commentato l'operazione anche il ministro Gualtieri. All'Italia viene garantita una posizione centrale nel consorzio delle borse Euronext. Visto che stiamo parlando del controllo della borsa italiana, parliamo anche della borsa in sé, che oggi è sostanzialmente invariata. Questo sarà un tema che affronteremo dopo la classifica, dopo la startup, nella seconda ora del programma. Cioè, anche oggi, ahimè, il nostro GR24 vi ha appena dato la notizia sul numero di contagiati oltre quota 5.000. In questa settimana siamo passati, dopo una settimana sempre tra i 2.000 e sotto i 3.000, a 3.000, 4.000 e 5.000. Adesso i tamponi sono stati altissimi, però anche nella giornata, nell'ultimo 24 ore, 130.000 tamponi. I decessi per fortuna si confermano 28, dico per fortuna perché non sono saliti in maniera così significativa rispetto ai contagiati 5.372, ieri 4.458, sono 1.000 positivi in più. Ma la domanda che ci porremo nella seconda ora è la seguente, cioè a fronte di un peggioramento netto della situazione in Europa, avete visto, immagino, l'allarme sulle terapie intensive, gli ospedali in Francia e anche in Spagna, soprattutto a Madrid, dove il 40% risulta già occupato da pazienti Covid. Le preoccupazioni espresse in Italia di oggi una notizia sull'assenza di operatori sanitari in Campania, anche di ieri, e i timori un eventuale aumento del contagio nelle regioni del sud metta sotto grosso stress la struttura sanitaria del nostro mezzogiorno. Ecco, a fronte di una tensione continua negli Stati Uniti, dove la campagna elettorale è una campagna elettorale Covid oriented, potremmo dire con un inglesismo. Beh, insomma, le borse europee, ma anche le borse internazionali, penso gli Stati Uniti, sono sostanzialmente tranquille. E quindi più di una persona ci ha fatto notare di nuovo una, non dico discrepanza o discrasia, insomma, comunque andamenti molto distanti tra quello che è il giudizio degli operatori di borsa e quello che invece è le attese sull'economia reale. E abbiamo visto anche in settimana lo stesso governo italiano dire: attenzione, se dovesse esservi una seconda, diciamo, pesante ondata di lockdown o pesante conseguenza del Covid, anche la previsione sulla crescita economica l'anno prossimo dovrà essere portata dal 6%, dal più 6%, a un misero più 1,8%. Allora, vi do anche il dato aggiornato che è uscito: i morti sono stati appunto 28, i pazienti in terapia intensiva sono 29 in più, il totale va a 387, i ricoverati sono 161 in più, arrivando a sopra quota 4.086, gli attualmente positivi hanno sfondato la quota dei 70.000, appunto, grazie, tra virgolette, 4.158 in giorno in più, e i guariti in più non sono tanti, purtroppo, sono 1.186, in aumento anche di 4.000 positivi in isolamento domiciliare. Allora, dicevo, mentre c'è una tendenza assolutamente negativa in Francia, Spagna e anche in parte in Gran Bretagna, e Germania e Italia, pur mantenendo dei numeri nettamente migliori, non voglio, diciamo, creare gesti scaramantici in chi è in ascolto, però insomma, ahimè, anche noi vediamo che è una tendenza a seguire quei paesi pur con uno scarto di alcune settimane. E dicevo, i mercati finanziari sembrano del tutto ignorare questa situazione, e quindi ci interrogheremo tra il rapporto, in questo caso tra economia reale e finanza, non che si voglia vedere i mercati che crollano, però forse c'è un ragionamento diverso che non esce semplicemente dagli indici azionari. Lo dico perché oggi le borse sono tutte invariate, tranne Parigi che guadagna lo 0,70 e Londra lo 0,60%, Dow Jones più 0,40%, bene Atlantia più 3,5%, Steam Electronics più 2,70%, CNH più 2,70, Diasorin più 2,60, Mediolanum più 2,20, come Azimut e Amplifon. Il 2% lo guadagna Recordati, l'1,70 Banca Generali. Fronte opposto, Telecom meno 3, come Pirelli, il 2,5 lo perde Leonardo, il 2,20 Saipem, il 2% del caro di Unicredit, l'1,5 quello di Buzzi Unicem. E di Fiat Chrysler, Prismian meno 1,40 come Banco BPM, Mediobanca meno 1%. Il numero, come sempre, per i vostri sms e whatsapp è 349-238-6666, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Andiamo con le notizie in breve, partiamo come sempre da quelle di carattere internazionale. Il prodotto interno lordo britannico è cresciuto ad agosto del 2,1% rispetto al mese precedente, meno delle attese degli analisti che stimavano un più 4,6%. La crescita a questo punto nel trimestre è stata dell'8%. La produzione industriale in Francia è cresciuta ad agosto meno anche questo delle attese, più 1,3%. Mentre l'unico paese che è uscito, io l'ho detto, lo ribadisco anche oggi, non credo alle cifre del Covid cinese, è una mia personale opinione, la Cina continua a mantenere 18.000 contagiati e 4.000 morti. Ora, di che cosa stiamo parlando? Voglio dire, visto che l'Italia viaggia a 36.000 decessi per Covid, la Francia a 32.000, la Gran Bretagna a 45-46.000, per carità, se hanno trovato una risposta miracolosa per contenere l'epidemia con 18.000 contagiati, sarebbe anche interessante che ce la facessero sapere. Ma che la Cina, con 1,5 miliardi di abitanti, dove è scoppiato il Covid, abbia registrato in tutto meno di 5.000 morti e sono 18.000 contagiati, è una cosa che non sta in cielo né in terra. Comunque la Cina invece diffonde dati migliori del previsto sul turismo, c'è la festa nazionale di metà autunno, turisti chiaramente cinesi che si muovono in Cina, le prenotazioni in alberghi nazionali dal 1 al 4 ottobre sono aumentate del 40% rispetto all'anno scorso, questo anche perché se non si muovono in altre destinazioni europee o internazionali restano in Cina, e tra l'altro durante le vacanze sono 126 milioni i passeggeri 126 milioni di viaggi di passeggeri in treno sono stati compiuti in Cina negli 11 giorni di spostamento. Il numero medio di viaggi giornalieri da parte dei passeggeri ferroviari di 11.530.000, l'80% di quanto registrato l'anno scorso. Per carità, con questi numeri è normale che non vi sia neanche un contagiato in più o... ripeto, non è una posizione politica, non, dopo l'esperienza e l'atteggiamento che ha avuto la Cina in tutta la gestione del Covid, dal denunciarlo con un mese e mezzo, due di ritardo, stando a quanto vediamo, che già solo questo varrebbe, se vi fosse un tribunale internazionale, la richiesta di andare a chiedere alla Cina perché ha diffuso l'allarme così tardi, perché ha negato che fosse un contagio uomo su uomo, perché ha negato, grazie anche all'OMS, che le mascherine fossero importanti. Voglio dire, poi abbiamo scoperto che quantomeno da inizio dicembre la cosa era nota, perché ha arrestato e poi liberato, ma nel frattempo è morto di Covid, il primo medico che l'ha denunciato, perché i ricercatori sono stati messi a stare in silenzio. Cioè, tutto un insieme di cose che non tornano, tutto un insieme di cose che non tornano, e continua a rifiutare qualunque inchiesta. Sarebbe importante sapere esattamente, cercare di capire se si è sviluppato in quei maledetti wet markets su cui era stato chiesto alla Cina già nel 2002 dopo la SARS di porre rimedio alle condizioni igieniche inaccettabili in qualunque paese occidentale. Non me ne frega nulla se l'ambasciatore cinese vorrà scrivere due righe a questo programma, perché in questo caso il danno economico che si sta generando è un danno immenso. Quindi almeno la decenza di accettare un'ispezione internazionale, di capire, è nato nei wet markets, è nato... è difficile che sia nato lì, può essere sfuggito a un laboratorio, non lo so, non ho la minima idea e non lo sapremo mai, visto che la Cina impedisce qualunque ispezione di carattere internazionale. E non me ne frega niente se è la stessa posizione di Trump, lo dico, che mi sta scrivendo Trump, di cavolate, a mio avviso, che sparo ogni giorno, ma cavolate, non, cioè, numeri alla mano, l'ultima, quella degli stessi morti in America, per più morti per influenza che per Covid, il dato è esattamente l'opposto, sono tre volte i morti per Covid negli Stati Uniti rispetto ai morti per influenza. Però se quello che dico è quello che diciamo è nella linea del presidente americano, non me ne vergogno. Per cui la Cina continua a festeggiare, dati sul turismo migliore del previsto, beata lei, cosa devo dirvi? Sarei curioso di sapere se, per esempio, nei wet market si continua a lavorare, a comprare animali vivi e macellati sul posto con lo stesso tipo di promiscuità di prima. Nulla. In Cina leggi solo notizie, se guardi la stampa, diciamo, governativa, cioè la stampa cinese, leggi solo notizie sul diffondersi dell'epidemia in Europa. Ma va, come si dirà in cinese? Ma va. Allora, Italia, lo spread a 123 punti, sempre stabile. La produzione d'agosto dell'industria invece è andata meglio di altri paesi, più 7,7% rispetto ad agosto. La cosa importante è che rispetto ad agosto dell'anno scorso il calo è solo dello 0,3%, e quindi nella media, tra l'altro, il trimestre giugno, luglio, agosto fa più 34% rispetto al trimestre precedente. Qui ci voleva poco, perché c'era anche metà attività era chiusa nella produzione industriale. Per su base mensile gli aumenti sono in tutti i comparti: beni di consumo più 6,6%, beni strumentali più 4,3%, beni intermedi più 4%, energia più 3,5%, e ancora bene mezzi di trasporto, recupera anche un po' il settore tessile, perché il settore tessile fa più 8%, e scusate, il settore tessile, abbigliamento, pelli e accessori fa un più 36% rispetto all'anno, al mese precedente, e bene anche altri settori: riparazione e installazione più 8,8%, articoli di gomma e materie plastiche più 2,8%, flessioni più ampie rispetto all'anno prima si registrano invece nei prodotti petroliferi, attività estrattiva, legno e della carta e stampa meno 6%. Però rispetto all'anno prima, ripeto, c'è stato un buon rimbalzo, anzi un ottimo rimbalzo del settore tessile. Ci spiegavano gli ospiti in queste settimane che probabilmente il dato di luglio sul tessile, abbigliamento e calzaturiero era falsato anche dal fatto che i saldi causa lockdown precedente fossero partiti in ritardo. Dunque, del London Stock Exchange che vende a Euronext, la borsa italiana, l'abbiamo già detto, per qualcuno mi chiede dunque i tamponi, allora vedo alcune agenzie che stanno battendo, che alcune notizie che le agenzie stanno battendo adesso, i tamponi fatti è un nuovo sono un nuovo record, quindi i tamponi che citavo prima sui dati di oggi, per quello che riguarda appunto le vittime totali sono 36.111, gli altri dati li confermo, quindi le vittime sono purtroppo aumentate di 28 unità, di 29 le terapie intensive, e i ricoverati nei reparti di 161. C'è un allarme degli anestesisti sulle rianimazioni al sud, dice infatti il presidente dell'Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri Italiani, Alessandro Vergallo, che se l'andamento dei casi di infezione continuerà con i ritmi e i numeri attuali e senza misure di contenimento, stimiamo che in meno di un mese le terapie intensive al centro-sud, soprattutto in Lazio e Campania, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto. Lo scrivono gli anestesisti che lavorano nelle rianimazioni, anestesisti rianimatori italiani. Quindi non lo dice un partito politico, non lo dice qualcuno che vuole fare opinione, sono gli anestesisti e gli animatori, ci vogliamo fidare a meno di loro? Quello che stiamo vivendo in questi giorni potrebbe essere l'inizio della seconda ondata della pandemia, piuttosto che l'onda lunga terminale della prima fase pandemica. E allora, lo dico perché a me verrebbe da suggerire quasi, domani c'è la manifestazione dei negazionisti, per carità siamo una democrazia, se questi si mettono la mascherina e vogliono manifestare sul fatto che il Covid non esiste, che il pericolo è esagerato e quant'altro, sono liberi di farlo, ci mancherebbe. Però potrei anche proporre, magari se sono così convinti, una verifica, il metodo galileiano, una verifica empirica, perché non danno una mano così, o fanno il minimo che riescono a fare nei reparti di rianimazione del Campania e Lazio. Sono già a Roma, domani possono farsi un giro, magari chiaramente con le mascherine, tutti bardati, per vedere, così. Perché uno può manifestare anche sulla terra piatta, ci mancherebbe, ma siamo una bellissima democrazia. Però anche andare a verificare ogni tanto, non è che io scendo in piazza con una mia idea, la terra è piatta, ci sono le colonne d'Ercole e sotto poi si casca voglio dire, vai a farti un giro a Gibilterra e così vai a farti un giro nei reparti di rianimazione e in terapia intensiva. Io ho la sensazione che alcuni abbiano un tale problema di identità, di complesso, di così, che pur di farsi notare debbano sempre dire qualcosa che è il contrario del pensiero comune, no? Domani si sposa un ascoltatore, auguri, gli faccio in diretta, però non apriamo la rubrica Fiori d'Arancio, devo aprire la rubrica sulla classifica, però vabbè, volentieri, in questo periodo dove le buone notizie sono poche. Andando adesso la Svizzera ha inserito 4 regioni italiane oltre alla Liguria nella lista rossa, e quindi Campania, Sardegna e Veneto vanno ad aggiungersi alla Liguria. Invece segnalo che il membro del comitato esecutivo dell'OMS, Walter Ricciardi, ha detto che secondo lui può essere ridotta la quarantena a 10 giorni come in Germania, con un tampone invece che 2 tamponi. Questo è un tema su cui io chiedo al CTS, al Ministero della Salute, di trovare, ho visto la polemica di Silieri col CTS, di trovare un accordo, perché se altri paesi si muovono su questo bisogna dare indicazioni precise. È chiaro che se si scopre che la quarantena può essere di 10 giorni, basta un tampone, sblocchi moltissime situazioni, così come se si riuscisse a utilizzare in maniera massiccia, io non sono un medico, ci mancherebbe, i cosiddetti tamponi salivari, quelli che vengono usati in aeroporto, avreste dei tempi molto più rapidi. Vorremmo una risposta su questo, tutto qua. Ricciardi dice che a novembre rischiamo 16.000 casi al giorno. Guerra dice: scordatevi l'immunità di gregge, bisogna avere almeno il 90%. E il sud, ha detto Guerra, Ranieri Guerra, sta vivendo quella che è stata l'ondata iniziale al nord, però con le lezioni imparate. Ci sono presidi che prima non c'erano, medici preparati, in questo ha ragione Guerra, cioè, non è come quando a Bergamo e ad Alzano vennero ospedalizzati i positivi e si creò un focolaio, diciamo, venne nosocomizzato il virus. È vero che c'è una grande capacità adesso di intercetto e di diagnosi molto precoce. Il ministro Bocci ha detto: chiusura delle regioni, non si può escludere nulla. Non pensiamo di chiudere, gli interventi saranno mirati se necessario. Bonaccini questa mattina, abbiamo Bonaccini da 24 mattina, poi lo faccio ascoltare perché adesso c'ho il meteo. Abbiamo Bonaccini? No, ancora no, benissimo, se lo stanno preparando. Comunque se necessario pronti a più restrizioni. E però lo stesso la Confindustria Emilia Romagna ha detto: attenzione, il paese non potrebbe reggere un altro lockdown. Ancora due notizie brevissime, poi vado sul meteo. Il Tesoro ha collocato in asta botta un anno, il tasso è sceso a meno 0,436%, 436%. L'ABI ha fatto notare che le domande al fondo di garanzia ormai hanno toccato i 90 miliardi, 1.149.000 domande, di cui la stragrande maggioranza, 930.000 fino a 30.000 euro per 18 miliardi di euro. La Banca d'Italia segnala che i prestiti bancari sono cresciuti nel settore privato del 3,6%, le sofferenze sono calate del 15%. Per quello che riguarda invece mi continuate a scrivere sulla manifestazione di domani, ragazzi, la democrazia è democrazia, uno vuole manifestare perché ritiene che ci sia un'esagerazione nelle protezioni sul Covid, che lo faccia. Io sono d'accordo però con la questura di Roma, che ha detto a quelli che si dipingono come marcia della liberazione, io personalmente vorrei liberarmi da loro, però siamo in democrazia. Ebbene, il questore ha detto: va bene, manifestate contro la dittatura sanitaria e contro, però mettete, per la marcia della liberazione, mettete la maschera, la mascherina. Sono attesi circa 3.000 partecipanti. Ha fatto una prescrizione ai promotori ad indossare la mascherina. È giusto, manifesti, ma nella massima sicurezza. Mica vogliamo creare un focolaio di quelli che ritengono che il virus non esista. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo su meteo, pubblicità e poi la classifica. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. La classifica della settimana. Dunque, no, raccolgo alcuni inviti. In effetti, siccome la legge è legge per tutti, ovvio che chi manifesta domani deve mettere la mascherina. Tu sarai contro il semaforo rosso, l'eccesso o la multa per eccesso di velocità, però intanto rispetti la legge, poi protesti quanto vuoi. La seconda cosa che mi scrivono alcuni ascoltatori: però se si ammano io gli farei pagare le spese mediche. Beh, non è una cosa del tutto peregrina. Intanto segnalo che per esempio in montagna, se tu ti metti in pericolo e deve arrivare l'elisoccorso, o se tu non hai rispettato le indicazioni, quindi ti sei messo in pericolo da solo, te lo paghi l'elisoccorso. E voglio dire, così almeno qualche migliaio di euro lo tiri fuori se ti sei messo a fare il pirla fuori pista dove c'era indicato di non andare, no? Beh, non è un'idea così peregrina. In Australia, all'inizio, i primi mesi, hanno offrivano l'albergo a 5 stelle pagato a tutti gli australiani che rientravano e dovevano farsi la quarantena. Dopodiché, terminata una certa data, hanno detto: tu sei ancora fuori? Non sei voluto rientrare nei mesi che ti abbiamo dato noi a disposizione? Bene, quando rientrerai, l'albergo a 5 stelle, obbligatorio, 5 stelle, insomma, te lo paghi tu. Beh, potrebbe essere che ti sei aggregato, hai voluto manifestare, a parte che senza mascherina e becchina multa, magari ti paghi anche le spese, non lo so, mi sembra dei tali pirla sti qua che... Invece partiamo con una buona notizia, poi andiamo al quinto posto, che di notizie buone come sempre la classifica non ne ha. La buona notizia è un caso che avevamo citato anche noi, devo dire, l'avevamo fatto i giornali, Mirta Merlino alla 7 con l'aria che tira. Mi riferisco a quella cosa allucinante dell'uomo licenziato a 7 mesi, a un passo dalla pensione del punto vendita famiglia di Casal Pusterlengo, perché lui aveva lavorato, si era preso il Covid, poi era tornato al lavoro, si era riammalato come conseguenza del Covid. L'azienda gli aveva detto, dopo 33 anni di lavoro, Troppa assenza, si è licenziato. La faccio breve. L'hanno riassunto, quindi bene, che ogni tanto anche la stampa e l'esposizione mediatica, perché è questo che ha portato, ma siamo qui anche per questo, ha permesso di chiudere una vicenda assurda e non voglio tornarvi. Invece andiamo subito al quinto posto. Ora, il quinto posto oggi sì, così si oggettivizza, diciamo così, con no, io non ho detto, non mi scrive, quindi fumatori che si ammalano di tumori, di malattie cardiache, non li curiamo? Non ho detto questo, ho detto vengono curati. Però lei sa benissimo, per esempio, che l'assicurazione sulla vita distingue se lei è fumatore o no, le fa pagare un premio più alto. Cioè, voglio dire, c'è una corrispondenza anche. Io ho detto solo che questi che cinicamente si mettono a manifestare, no, qualcosa, ma era chiaramente una provocazione. Dopodiché, se la differenza, adesso faccio io il gesto scaramantico, se io mi ammalo in quanto fumatore, ho pagato il Servizio Sanitario Nazionale, ma non contagio nessuno. Il tema di un'epidemia è sempre il solito, che se io mi ammalo, nel frattempo magari ho contagiato qualcun altro che non c'entrava nulla. Ok, tutto qua. Vabbè, andiamo avanti. Allora, al quinto posto, facciamo una classifica nella classifica, cioè abbiamo numerosi casi ogni settimana di percettori di reddito di cittadinanza che non avevano diritto. Ora, la tengo bassa perché rispetto all'ammontare di redditi di cittadinanza percepiti, i numeri sono ancora bassi e non sono in grado di dire se i numeri siano bassi perché i controlli sono bassi e quindi siano solo la punta di un iceberg, oppure perché veramente sono pochi quelli che vengono scovati. Fermo restando che il reddito di cittadinanza è una misura, a mio avviso, importante come misura di welfare per combattere la povertà cronicizzata, non serve a nulla come politica attiva sul lavoro, cioè far trovare lavoro attraverso il navigator. Allora, al quinto posto abbiamo trovato il muratore, il titolare di antiche fonti Cottorella, imprenditori multati perché tra l'altro c'era un accordo per far percepire il reddito di cittadinanza. Poi 4 arresti in Liguria perché il reddito di cittadinanza veniva usato, lo hanno scoperto i carabinieri di Arenzano, per comprare droga da spacciare. Cioè uno comprava la droga e diceva ti darò i soldi appena mi arriva il reddito, mi viene dato, mi viene messo su conto corrente il reddito di cittadinanza. È venuto fuori un'inchiesta pazzesca, 100 boss tra capi e gregari incassavano il sussidio, altri 15 avevano appena presentato la domanda. Questo grazie alla Guardia di Finanza calabrese, che ha concentrato la sua attività su 500 condannati definitivi e anche 30 in provincia di Foggia detenuti per reati gravi. Io mi chiedo, va ben tutto, ma li beccano dopo? Ma è possibile che uno non riesca a capire che se uno è detenuto non ha diritto al reddito di cittadinanza? Ma detenuti poi associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, beh, non si può chiedere la fedina penale a sto punto, visto che tutti i casi riguardano gente, moltissimi casi riguardano gente che ha avuto condanne o che è in carcere, almeno il certificato penale quando chiedi il reddito. Comunque, altri casi riguardano, adesso li sto beccando perché ce n'è una marea, eccolo qua, dov'erano, perché ce n'è uno che, revocate ad Agrigento le card del reddito di cittadinanza per 69 indagati e incassati sussidi per 60.000 euro ma vivevano all'estero, denunciati 2 cittadini italiani di origini bengalesi. Il più bello, se posso dire così, perché mettiamo una classifica anche dentro la classifica, è quanto accaduto nel pesarese. Lo dico perché anche qui hanno beccato uno che incassava il reddito di cittadinanza perché non aveva diritto. Ma non aveva diritto. No, dico che è il più bello perché gli altri sono mafiosi, camorristi, condannati, e lì mi sembra che l'accertamento sia un po' debole. Ma qui veramente è uno che dà uno schiaffo alla fortuna. Cioè, hai avuto tanto C, però hai anche la faccia come C. Vi spiego perché. Questa persona, che ha avuto il coraggio di prendere reddito di cittadinanza, aveva ottenuto tra il 2019 e il 2020, grazie a una grande botta di C, 170.000 euro di vincite ai giochi online. Ovviamente aveva omesso di indicarlo nella dichiarazione sostitutiva unica per l'ISEE. Nello specifico, i finanzieri hanno scoperto che aveva una situazione patrimoniale al di sopra, te credo, dei limiti previsti, perché nel 2019 aveva vinto con i giochi online 60.663 euro. Nel 2020 ne aveva vinti 111.000, ma quanto gioca, bravi, veramente sarebbe da toccargli la schiena. E invece ha avuto anche la faccia tosta, e quando tiri troppo la corda poi si spezza, di chiedere il reddito di cittadinanza. Ma non ti bastavano 170.000 euro di vincita online in 2 anni? Ma dai, su. Numero uno questo, eh. Andiamo al quarto posto, e qua poi, come sapete, la classifica diventa sempre più fastidiosa più si sale con i posti. Allora, quanto ci vuole secondo voi per notificare una sentenza di condanna, a maggior ragione se emessa in contumacia, cioè in assenza del condannato, che poi ti serve questa notifica per ricorrere in appello? Non stiamo parlando di una condanna, diciamo, per un reato molto grave o diciamo molto articolato come inchiesta. Qui si tratta di un banalissimo caso di ricettazione di un assegno. Però la persona, la donna, è stata condannata a 2 mesi e 6 mesi a risarcimento delle spese. Ora, a quel punto devono arrivare le motivazioni della condanna all'avvocato, come sempre, perché vada, come è diritto suo nella legge, in appello a cercare una soluzione. Ora, la domanda, la risposta ve la do dopo il traffico. Quanto ci vuole in Italia, nello specifico al Tribunale di Napoli, per notificare via PEC una sentenza di condanna per ricettazione di un assegno? Dopo il traffico, la risposta. Strade in diretta. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento con la viabilità. Situazione ancora critica sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole a causa di un incidente in cui sono rimaste coinvolte 2 autovetture e un camion che si è poi ribaltato sul New Jersey centrale. Si segnalano code tra Terre di Canossa e Fidenza, pari a 8 km in direzione Milano con restringimento di carreggiata e pari a ben 10 km gli incolonnamenti in direzione Bologna. Sempre sull'autostrada del Sole, code anche in questo caso per incidente tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli. Ci spostiamo infine sulla A7 Milano-Genova, code per incidente pari a momento a 3 km tra Bolzaneto e Busalla in direzione del capoluogo lombardo. Queste al momento le notizie più importanti, ci risentiamo alle 18.15. Focus Economia. No. Andiamo adesso alla risposta del quarto posto. No, mi fa sorridere una cosa che, rompendo una regola, ho fatto gli auguri di matrimonio a un ascoltatore che mi aveva chiesto, domani mi sposo, visto il periodo di notizie negative, lui mi ha detto sì, grazie per gli auguri, ma lei resta comunque un boiardo di Stato. Ma porca miseria, una volta che rompo la regola la becco pure come boomerang. Sì, lei però, prima di sposarsi, a questo punto studi cosa vuol dire chi erano i boiardi di Stato. I boiardi, li do così un suggerimento, erano russi. Poi l'espressione viene coniata negli anni 70-80 in Italia, però non voglio spiegare tutto. E poi mi dica che cavolo c'entra il boiardo di Stato con uno che lavora in un gruppo privato. Detto questo, di nuovo auguri di matrimonio, figli maschi, figli femmine, figli, quello che volete, si diverte, non scrive cose di cui non conosce il contenuto, se no poi magari si rovina anche il matrimonio. Andiamo avanti. Allora, quanto ci vuole per notificare una banalissima condanna tramite PEC? Allora, la sezione distaccata del Tribunale di Napoli a Marano, e attenzione, qui c'è poco da ridere perché l'accusa e la condanna è di ricettazione di un assegno, però poi 2 anni e 6 mesi, il risarcimento delle spese, hai anche diritto a fare appello. Quanto ci vuole? 8 anni, ecco perché io ti dico che poi non se ne esce in alcuni casi. L'avvocato della signora, che si chiama Gaetano Laghi, ha reso noto la storia sulle pagine del Mattino. Tecnicamente si tratta di estratto contumaciale, gli è arrivata soltanto adesso. La signora contumace, quindi assente, è stata condannata. Se dovesse rinunciare all'appello potrebbe finire in carcere. Mi chiedo 8 anni dopo che senso abbia. Ma io mi chiedo soprattutto se da un punto di vista della produttività o efficienza amministrativa, non si possa iniziare a inserire dei controlli anche dentro i nostri tribunali. Non vuol dire limitare l'indipendenza della magistratura, vuol dire chiedere alla magistratura di avere anche dei metri di valutazione sull'efficienza. Alcune procure lavorano meglio, altre peggio. Sarà anche perché qualche procuratore è migliore, qualche altro è più lavativo, o si può dire, o è un attacco all'indipendenza della magistratura. Vuol dire, perfino i medici, su cui nessuno si permette di valutare, poi però se c'è un errore, se c'è, vanno a processo, c'è una perizia di parte, insomma si cerca di capire perché un intervento non è andato a buon fine. La magistratura no, qui il tribunale ci mette 8 anni a mandare una PEC, però è così, è la lentezza della nostra magistratura. Ma siamo riusciti a riformare le poste, siamo riusciti a riformare le ferrovie, quando ero ragazzo si diceva non vorrei mica andare a lavorare alle poste, alle ferrovie. È possibile che non si riesca a introdurre un coefficiente di valutazione sulla produttività di un tribunale o di una sede distaccata, in modo che se arriva una PEC dopo 8 anni almeno una sanzione c'è, dai. Vabbè, andiamo al terzo posto, se no oggi mi dilungo e voglio fare anche il tema delle borse. Al terzo posto chiedo a Terni e alla Perugia intera se vi interessa, scusate, all'Umbria intera e a Perugia, se interessa avere qualche migliaia di euro in più della lotta all'evasione. Spiego perché. I comuni hanno la possibilità di fare un contrasto all'evasione. Tra l'altro era una norma importante perché i comuni possono recuperare le risorse per ampliare i servizi ai cittadini o per abbassare le tasse a livello locale, e sono i primi presidi sul territorio. Nessuno vuole che il sindaco si sostituisca alla Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate, ci mancherebbe. Però un minimo i soldi servono. Perché lo dico? Perché in Umbria sembra proprio che il contrasto all'evasione fiscale e contributiva non interessi. I peggiori in Italia come capacità di riscuotere il dovuto sono 33 comuni della provincia di Terni, che per il 2019 hanno incassato per la compartecipazione al contrasto all'evasione la somma di 165 euro complessivamente. Cioè, voglio dire, incassi di più con una singola multa per eccesso di velocità. Parliamoci chiaro, meglio mettere un autovelox se deve essere questo l'atteggiamento. Tra questi anche il comune di Terni, che non ha incassato proprio nulla, perché essendo il comune più grosso voleva dare l'esempio, come era avvenuto anche per il 2018. Addirittura nel 2017 era riuscito a incassare 100 euro. Capirai, tutti gli asili del comune, 100 euro, ai bambini, migliora la mensa. No, il 2018 ha rinunciato anche a 100 euro... E 2019 è rimasto in linea. Anche Perugia non ride: su 59 comuni solo 4 hanno recuperato complessivamente 20.600 euro. La città di Perugia ha recuperato 1.860 euro contro i 6.000 dell'anno precedente e i 7.000 euro dell'anno del 2017. Faccio notare che se uno prende il raffronto con altre regioni, parlo di comuni piccoli, non del comune di Bologna, ma dei comuni della provincia di Bologna, i comuni della provincia di Bologna hanno incassato 1.600.000 euro. Non sarà tantissimo, magari qualcosa riesce a fare con 1.600.000 euro, no? Dare qualche incentivo in più, penso agli asili, alle mense, insomma, no. I comuni della provincia di Milano 900.000 euro, i comuni nella provincia di Torino 670.000 euro, in provincia di Genova i comuni 620.000 euro, in provincia di Modena. Possiamo raffrontare i comuni della provincia di Modena con i comuni della provincia di Perugia? Boh, 615.000 euro contro 20.000 complessivamente dei comuni della provincia di Perugia. A Genova, comune di Genova, hanno recuperato 580.000 euro, a Torino 560, a Milano 350, comune di Bologna 260, Roma 66.000. Non sono le multe, è il contrasto all'evasione che sono chiamati a compartecipare al contrasto dell'evasione. Palermo 2.000 euro, Bari e Cagliari non hanno recuperato nulla. Non lo so, chiedo se interessino ancora quei soldi ai comuni italiani. Andiamo al secondo posto. Allora, qualcuno suggerisce che ci ha messo 8 anni perché non esisteva la PEC, hanno atteso che fosse inventata, e come no. Poi qualcuno mi dice oggi non ti si può ascoltare, Covid, mascherine, regole antidemocratiche, il 95% sono senza sintomi, di la verità, ma sarà anche così. Il problema è che faccia il conto qual è il 5% se ha sintomi ricoverato in Italia, e poi si faccia due conti e poi me lo racconta dopo. Andiamo al secondo posto, dai. E qui iniziano a girare vorticosamente. Allora, voi sapete che molte regioni italiane hanno, durante l'emergenza totale, il lockdown, il Covid, con i medici stremati, hanno deciso, l'ha fatto l'Emilia Romagna, ma non solo, di dare dei premi al personale infermieristico e medico e comunque al personale sanitario per il sacrificio, gli eroi. Ora, nelle Marche, adesso ho visto che tutto l'ha bloccato il neo presidente appena eletto, Acquaroli, eletto con Fratelli d'Italia. Nelle Marche, e la denuncia è arrivata solo perché alcuni dirigenti ne erano stati esclusi, da quello che si è capito, si stava verificando, è stata bloccata in extremis, un caso da veramente far prudere le mani. Però siccome ho 20 secondi, lo racconto dopo il GR24 e poi andiamo al primo posto. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la discrasia, chiamiamola così, tra borse e andamento dell'economia reale, anche in prospettiva con un peggiorare della situazione sanitaria. Provare finché non riesci a dire si può fare. Sono Laura Bettini e vi racconterò i tentativi e i successi di chi oggi in Italia ci ha provato e ci è riuscito. Ogni sabato e domenica alle 8:30 su Radio 24. Stress da vita complicata? Ansiolev, l'alternativa dalla natura. Ansiolev, l'integratore alimentare di Speckiasol per ridurre la tensione e ritrovare calma e serenità. Chiedi Ansiolev in compresse e gocce presso la tua farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Ansiolev, e ritrovi la calma. Migliorare è l'attitudine che ci guida da sempre. Nuova BMW Serie 5, oggi anche plug-in hybrid e mild hybrid. Guidala da €350 al mese con il nuovo leasing operativo BMW Y-by Evo, senza acquistarla e senza pensare ad altro, perché bollo, RCA e manutenzione sono inclusi. Fino al 31 dicembre, salvo approvazione BMW Financial Services. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Barbara Colombo, presidente di Ucimu Sistemi per Produrre, ti invita da mercoledì 14 a sabato 17 ottobre a Fiera Milano Roper 32 PIMU, manifestazione espositiva dedicata a macchine, utensili, robot, automazione, digital manufacturing, tecnologie ausiliarie, 350 imprese, due padiglioni espositivi, 40 eventi collaterali nell'arena BIMU più, e poi grande novità BIMU più Digital, spazio dimostrativo dedicato alla fabbrica digitale. Info e preregistrazione in bimu.it, ingresso gratuito. Il nostro divano, quante emozioni. Qui abbiamo visto Celebrity Hunted. Il tavolino della nonna, che ricordi. Qui è dove abbiamo messo la superfibra Wind 3. Ma un pensiero romantico? Guardiamo Mother Love. Scegli la superfibra Wind 3 a €28,98 al mese entro il 25 ottobre. Per te 12 mesi di Amazon Prime con film e serie TV di Prime Video inclusi. Copertura e condizioni su wind3.it. Vieni nei Wind 3 Store o chiama il 159. Wind 3, molto più vicini. Vuoi rendere agile la tua azienda per essere veramente smart? Passa a Pantera, l'ERP italiano che copre tutti i processi gestionali, facilitando la collaborazione in mobilità di tutti i soggetti dell'ecosistema aziendale. Se il tuo gestionale è un assistente affaticato e passivo, è il momento di passare a Pantera. Finalmente i tuoi processi diventeranno proattivi e l'informazione ti inseguirà ovunque. Anticipa il cambiamento. Passa a Pantera. Pantera è una soluzione di Var Group. E ricorda, Pantera si scrive con il TH. Bonus casa 110%. La differenza tra chi ne parla e chi lo fa sta nell'esperienza e nei numeri. Gabetti Lab, esperti dell'abitare sostenibile. Gabettilab.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Di 18:08. Allora, al secondo posto della classifica, la Regione Marche, ripeto, è stato bloccato in estremis e spero che non venga mai riproposto. Un decreto firmato ad agosto dalla dirigente del Servizio Salute della Regione Marche, lei si chiama Lucia Di Furia, che autorizzava il decreto numero 16 del 7 agosto, che autorizzava il pagamento delle quote di straordinari per 82 tra dirigenti e interni ed esterni, 82 dirigenti della regione. Questo il motivo era, diciamo, aver affrontato l'emergenza Covid. Allora, vediamo di capirci, perché le somme potevano andare da 4.000 a oltre 10.000 euro, perché era il 30% rispetto allo stipendio tabellare dei vari ruoli. E quindi sono somme importanti. Il nuovo presidente della regione, Francesco Acquaroli, ha dato l'indicazione di bloccare il provvedimento. Infatti i dirigenti della regione dicono: guardate che ancora non un euro è uscito, per fortuna, però c'era un decreto. Allora, la cosa che mi fa incavolare di brutto è che questi dirigenti, ovvio che se tu sei stato un dirigente in prima linea, magari sanità, area sanità e protezione civile, puoi essere anche, ci può essere, figuriamoci, un bonus per l'attività svolta. Ma che senso ha premiare col 30% rispetto allo stipendio tabellare i dirigenti del settore turismo? Ma chi cavolo, cosa hanno fatto durante l'emergenza nel settore turismo? Era tutto chiuso. Cultura e sport, risorse umane, tutela del territorio, il servizio affari istituzionali e integrità, che comprende anche alcune figure dell'area comunicazione. Quindi alcuni di questi dirigenti funzionari hanno stipendi annui vicino ai 5 zeri ed erano in questa lista. Nella lista c'era anche uno dei dirigenti di più lungo corso, che nel periodo di massimo impatto del virus era in malattia e quindi non poteva prestare nessun tipo di attività, nessun servizio sotto alcuna forma. La cosa che mi manda in bestia è che mentre la dirigente, che adesso non sta parlando, non vuole commentare, del Servizio Salute della Regione Lucia Di Furia, autorizzava il pagamento delle quote straordinarie per 82 dirigenti interni ed esterni, la cosa è stata denunciata da alcuni dirigenti tagliati fuori, capito? Ma nel frattempo la Regione Marche sta ancora trattando, la contrattazione non si è infatti conclusa, gli aumenti per i dipendenti, diciamo, delle aziende ospedaliere, quindi medici, infermieri, tutti gli addetti sanitari. Sono incavolati i sindacati, hanno ragione il segretario regionale del sindacato Anao Assomedo, Oriano Mercante, perché dice: abbiamo fatto una trattativa infinita per arrivare a 615 euro una tantum, ne erano stati promessi 1000 di euro, ne sono arrivati 615 lordi. Quindi, se capisco, e tra l'altro l'accordo non si è ancora chiuso, perché delle quattro tra aziende ospedaliere e quella sanitaria regionale, le vertenze sono state chiuse solo nelle due più piccole, Marche Nord e Inrca, per il comparto infermieri, ausiliari e tecnici. Ora, voglio dire, già il fatto di dare 615 euro lordi dopo una trattativa estenuante mi sembra un po' pochino, ma soprattutto come si fa a far passare a proporre, a dire via libera una delibera che dà migliaia di euro ai dirigenti? Qualcuno mi dice: magari la produttività faceva riferimento al 2019 pre-Covid. Ma stiamo scherzando veramente, no? In un periodo del genere pigliate quei soldi, guardate, l'unica posizione, lo dico al presidente neoeletto Acquaroli, prenda tutti i soldi che erano con il decreto numero 16 del 7 agosto da distribuirsi ai dirigenti interni ed esterni, e li dia tu cur, le metta nel pacchetto complessivo degli accordi con le strutture sanitarie. Per favore, evitiamo di dover commentare in classifica queste porcate, così l'ho detta piano in francese. Andiamo al primo posto della classifica, and the winner is, oh, the winners are, dovremmo dire, i vincitori sono, perché io non sono in grado di capire chi abbia ragione e conseguentemente chi abbia torto tra il commissario Arcuri e le regioni italiane. Fatto sta che a metà maggio il governo, che in questo caso non ha colpa, il governo in senso stretto, ha messo con il decreto rilancio 1 miliardo e 200 milioni di euro per creare 7.500 nuovi posti di terapia intensiva. Ora, dopo 5 mesi, devono ancora partire le gare di appalto. Perché? Allora, 1 miliardo e 100 milioni per trasformare i letti di terapia intensiva messi su alla meglio durante i mesi più duri dell'emergenza in postazioni che in grado di rispettare standard di sicurezza e di strumentazione tecnologica. Siamo a ottobre, non c'è neanche un cantiere aperto su questo. Allora, tra le regioni e il commissario Arcuri ci rimpallano le responsabilità. Perché poi adesso è arrivato un accordo per procedere con gare di appalto e procedura semplificata. Gli uomini della struttura commissariale di Arcuri dicono che le regioni hanno inviato i loro piani di stabilizzazione dei posti letto di terapia intensiva solo da pochi giorni, per questo le gare non sono ancora partite. Io dico però potevano anche essere denunciate prima questi ritardi, cioè non adesso che stiamo di nuovo a rincorrere l'emergenza. Si poteva dire due mesi fa, a luglio, ad agosto, guardate che le regioni non ci stanno mandando i piani di stabilizzazione, facendo l'elenco anche delle regioni. Adesso entro fine mese partiranno i cantieri, però ci vorrà tempo per realizzare 3.443 nuovi letti di terapia intensiva e 4.213 di subintensiva, il 50% dei quali è riadattabile per i malati più gravi. Ci vorrà tempo anche perché adesso che aumentano i ricoveri, i lavori dovranno consentire di separare i percorsi per malati Covid e non Covid e creare gli spazi giusti per disporre i macchinari. Mancano invece, qui non c'entra però la struttura commissariale, i medici, anestesisti, rianimatori. La ROI, che è l'associazione di categoria, denuncia che prima del Covid mancavano 4.000 figure, grazie ai soldi del decreto rilancio ne sono stati assunti un migliaio, ma ne mancano all'appello ancora 3.000, e quindi l'associazione degli anestesisti e rianimatori dice: piuttosto che utilizzare altri colleghi di altre specialità mediche che ne sanno meno, utilizziamo i giovani specializzandi dell'ultimo biennio, che sono sempre meglio formati dei colleghi di altre specialità. Faccio notare che degli oltre 5.000 letti di terapia intensiva preesistenti all'era Covid, nel periodo autunno-inverno il 90% sono occupati da pazienti di altre patologie, che hanno altre patologie. Questo è il famoso problema, che di solito vengono occupati da altre patologie. Ne restano 500, a cui si aggiungono i 1.000 post-Covid che le regioni hanno stabilizzati. In tutto fanno 1.500 letti, già a oggi siamo a 380. Non ci vuole un genio per capire che probabilmente, dovute anche alle patologie di carattere respiratorio che sono più presenti autunno ed inverno, la situazione delle terapie intensive di solito pre-Covid veniva già resa, non dico tutta occupata, ma buona parte occupata dai pazienti con altre patologie. E quindi attenzione, adesso Arcuri ha diviso i cantieri in 21 lotti regionali, spacchettati poi per altri 4 sublotti a regione, in tutto 84 appalti. Poi però metà delle regioni ha già deciso di fare da sé, approfittando della possibilità di esercitare il diritto di delega, che di fatto esautora il commissario. Una babele. Io dico: mettete chiarezza, e lo dico al commissario Arcuri: se veramente la situazione è così, denunciate prima la situazione, e alle regioni fateci capire quando partiranno effettivamente questi bandi. Comunque un bel applauso, perché il risultato di tutto questo è che, nonostante i mesi passati anche in tranquillità, luglio, agosto, in parte settembre, le gare adesso e solo adesso, con calma, come coi banchi, con molta calma, stanno partendo. Giorgio Mottironi, cofondatore CSO di Enertucrowd.com, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, casomai il nome un po' meno criptico, che sembra la password del Wi-Fi. Comunque, andiamo sul traffico, poi mi spiega cosa fa Enertucrowd.com, quando siete nati, quanti siete, quanto fatturate, e chi vi ha aiutato, e un fiorino dopo il traffico. Strade in diretta. Buonasera, bentrovati. Parliamo ancora del tratto emiliano dell'autostrada del Sole. A causa di un incidente in cui sono rimaste coinvolte due autovetture ed un camion che si è ribaltato sul New Jersey centrale, segnaliamo code tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione Milano pari a circa 8 km con restringimento di carreggiata, mentre in direzione Bologna al momento si segnalano code pari a 10 km. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, code per incidente tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Attorno alla capitale, sulla diramazione Roma Sud dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per incidente tra Torrenova e Monte Porzio Catone in direzione della 1. Segnaliamo infine che nel tratto urbano della A24 Roma-Teramo, per incidente al momento chiuso al traffico il bivio tra la A24 e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, con code a partire dallo svincolo di via Fiorentini. Per questo aggiornamento è tutto, ci risentiamo alle 18.45. Focus Economia. Dunque, Giorgio Mottironi, che cosa fai nel tucrowd.com, quanti siete, chi vi ha aiutato, quanto fatturate e basta, il fiorino, che cosa vuol dire fiorino? Vabbè, il fiorino deve andare con Benigni e a vedere, non ci resta che piangere, Troisi. Comunque, prego Mottironi. Beh, di nuovo buonasera a tutti quanti, io sono il cofondatore di NestoCrowd. NestoCrowd è una startup italiana, la prima piattaforma di investimenti resi disponibili alle persone, quindi al crowd, nel settore della green economy. Della green economy? Sì, la sento un po' male. Sì, della green economy. Ma è in viva voce? No, sono con il telefono. Ok, lo avvicino un po', prego, vado avanti. Siamo nati all'incirca un anno fa dal punto di vista operativo, sulla fine del 2019, abbiamo già chiuso una decina di campagne, quindi abbiamo già riscosso un certo successo da parte degli italiani andando a raccogliere risparmio privato. Ci ha aiutato un gruppo di investitori privati e professionali che all'inizio hanno ascoltato più o meno quella che era la nostra idea, che era per l'appunto quella di realizzare questa prima grande opportunità per gli italiani di investire in un megatrend importante come quello rappresentato dalle rinnovabili, dalla transizione energetica, dalla lotta al climate change. Ad oggi abbiamo un gruppo, diciamo, di dipendenti ristretto di circa 5-6 persone, ma poi il numero di collaboratori arriva all'incirca ad una decina. E il nostro target di fatturato entro fine anno, gli analisti mi dicono essere all'incirca 120.000-150.000 euro, che per una startup nata da pochi mesi e che ha dovuto attraversare il periodo Covid è comunque qualcosa di importante. E il segnale, diciamo, più rilevante è il volume della raccolta che siamo riusciti a realizzare in questi pochi mesi. Siamo già ad 1 milione di euro raccolti in piattaforma e abbiamo un obiettivo di fine anno di circa 1,5 milioni di euro. Poi devo dire che tutta questa grande movimentazione che c'è sul tema ecobonus ci permetterà di portare tanti altri progetti anche per il prossimo anno. Senta, quanti siete e lei che età ha e cosa faceva prima? Ora, noi siamo un gruppo di 5 persone, sono i collaboratori più stretti, in realtà ci sono 10 persone che lavorano per la startup, anche tra collaboratori esterni e advisor. Io personalmente ho 38 anni, sono uno dei più anziani del gruppo, il fondatore più giovane ne ha 28 ed è stato anche selezionato da Forbes tra gli under 30 più influenti d'Italia per questo 2020 e niente, questo è prima di questo io ero un consulente nel settore dell'efficienza energetica e lavoravo all'interno di un'energy service company per il mercato industriale. Qualcuno vi ha aiutato per concludere? Assolutamente sì, abbiamo trovato degli investitori privati, alcuni erano degli esperti di settore, altri erano degli imprenditori appassionati della nostra idea. Allora, in bocca al lupo anche a Giorgio Mottironi e agli altri 4 collaboratori di NR2Crowd.com. Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. Oh, fermi. Oh, scusi il sacco, doganiere. Scusi. Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua, è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Grazie. Ehi! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato, sono uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra e esce, sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Ragazzi, arrivederci. Senta. Ehi! Hey! Chi siete? Ma vaffanculo! Cosa portate? Allora, così l'ascoltatore sa perché diciamo un fiorino. Allora, a proposito di fiorini, più che altro di borsa, sterlina, euro, Lorenzo Codogno in collegamento con noi da Londra. Buonasera, Codogno. Buonasera. Allora, fondatore della LSI, nostro ospite spesso per parlare di mercati. La domanda è molto semplice per lei in chiusura. Come mai, forse lo notiamo solo noi, abbiamo un peggioramento della situazione sanitaria, questo è oggettivo, in Europa, delle prospettive che iniziano a essere incerte, abbiamo visto anche il rapporto e dichiarazione del Ministro dell'Economia, ma non solo, sul 2021, perché tutti si interrogano sul tipo di lockdown, Parigi, ma non solo, la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna che iniziano a porre restrizioni, e la domanda forse è banale, ma insomma le borse invece sembrano viaggiare in un altro mondo, sembrano viaggiare sostanzialmente in un'altra epoca. È solo per l'iniezione di liquidità molto alta o c'è un ragionamento che a noi sfugge? No, direi che è soprattutto l'iniezione di liquidità. È chiaro, con i tassi così bassi, se attualizziamo tutti i flussi di cassa futuri attesi delle aziende, abbiamo dei numeri elevati. E in più ovviamente l'eccesso di liquidità che c'è in giro forza investitori a investire su asset che sono già molto sopravvalutati. Questo secondo me è il fenomeno sottostante, ed era sopravvalutata la borsa anche prima del Covid, se vogliamo. Quindi stiamo comunque ulteriormente rigonfiando questa bolla. Per quanto riguarda il Covid, devo dire che bisogna vedere come la situazione evolverà, perché se la situazione evolverà anche con maggiori contagi, però senza un intasamento degli ospedali e senza un eccessivo aumento di morti, probabilmente la situazione comincerà a essere gestita, nel senso che le persone, le aziende devono continuare a lavorare e quindi troveranno il modo per limitare i rischi e continuare l'attività. Questo un po' mi sembra di capire sia la storia di questa seconda ondata, cioè nonostante i rischi, nonostante i pericoli, ormai bisogna gestire la situazione e quindi l'attività economica probabilmente non soffrirà come è accaduto nella prima parte di quest'anno. Questo vale anche per concludere, Codogno, che lei è capo di LC Macro Advisor, così la dico bene, vale anche per gli Stati Uniti, perché noi abbiamo notato un po' di incertezza sulla base dell'esito elettorale, però poi vediamo che alla fin fine non è che io stia gufando verso borse in calo, sto solo testimoniando una differenza tra le prospettive di crescita o di non crescita, di crollo dell'economia, delle macroeconomiche comunque che vengono diffuse, e l'andamento delle borse. Cioè nemmeno le elezioni americane sembrano avere una qualche influenza sull'andamento di Wall Street. No, ci sono alcuni dati anche negli Stati Uniti che non sono così negativi. C'è una forte ripresa dei consumi negli Stati Uniti, c'è stata una forte ripresa del reddito disponibile che ha supportato i consumi. Abbiamo visto che il rimbalzo dell'attività industriale è stato abbastanza repentino, peraltro oggi abbiamo visto anche il dato italiano di produzione industriale che, per quanto probabilmente distorto visto che è il mese di agosto, però ha mostrato un forte rimbalzo. Quindi c'è una ripresa in atto un po' globale, in parte stimolata dalle politiche monetarie molto accomodanti, ma anche dagli enormi stimoli fiscali che sono stati messi in campo dai governi nazionali e dall'Unione Europea nel caso dell'Europa. Quindi questo chiaramente aumenta, migliora le prospettive future e sostiene, per quanto riguarda i mercati finanziari, sostiene anche le borse. Però detto questo, se vuole la mia opinione personale, sì, certo, le borse sono, sono comunque su livelli molto elevati rispetto alle attese future. Però ripeto, non penso che la situazione cambierà domani, perché c'è talmente tanta liquidità in giro e le banche centrali sono di supporto in maniera così forte che probabilmente le cose non cambieranno domani mattina. Ecco, infatti stavo per chiedere, lei si attende quella che si chiama correzione? La risposta mi sembra no in questo momento. È molto difficile dirlo, ma è una situazione che può andare avanti per molto tempo, fino a che le banche centrali continueranno a fare quello che stanno facendo. Chiaro, no, chiarissimo il ragionamento. Anche lei riconosce che sono livelli alti di borsa, e però insomma, non dico drogate, qualcuno mi scrive drogate, comunque sicuramente falsate o forse comunque influenzate dal pompaggio continuo, costante di liquidità da parte delle banche centrali. Grazie anche a Lorenzo Codogno, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.